Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Il tempo corre davvero. Non me ne ero quasi accorto che eravamo arrivati alla conclusione di un'ennesima settimana di Eclettica. Infatti questo è l'ultimo volume. Non so se sia stato lo stesso anche per voi, se questa settimana sia volata o meno. Però abbiamo ora un'ora del venerdì sera, sempre che state ascoltando in diretta su Rock FM, per stare assieme e per prepararci al prossimo weekend. Per Jalil e le sue mogli, io ero una gramigna, un'artemisia, e tu pure, anche se non eri ancora nata. Cos'è un'artemisia? Le chiese Mariam. Una malerba, rispose Nana, che si strappa e si getta via. Nel suo intimo Mariam si adombrò, anche se ritenne prudente non manifestare il proprio disaccordo. Jalil non la trattava come un'erbaccia, non l'aveva mai fatto. Ma a differenza delle erbacce, io dovevo essere trapiantata, capisci? Doveva darmi cibo e acqua, perché c'eri tu. Questo era il patto che Jalil aveva stretto con la sua famiglia. Nana disse che si era rifiutata di rimanere a vivere a Herat. Per cosa? Per stare a guardarlo mentre scarrozzava tutto il giorno per la città le sue mogli Kinkini? Disse che non aveva voluto neppure stabilirsi nella casa vuota di suo padre, nel villaggio di Guldaman, su una collina dirupata 2 chilometri a nord di Herat. Voleva vivere in un luogo isolato, solitario, dove i vicini non avrebbero guardato con curiosità la sua pancia, non l'avrebbero indicata a dito, irrisa o, peggio ancora, aggredita con falsa gentilezza. «E credimi», disse Nana, «per tuo padre è stato un sollievo non avermi davanti agli occhi. Questa soluzione gli faceva proprio comodo». Era stato Musin, il figlio maggiore di Jalil, che aveva avuto dalla prima moglie Khadija, a proporre la radura. Era alla periferia di Guldaman. Per raggiungerla si doveva risalire lungo un viottolo in terra battuta che si diramava dalla strada principale tra Herat e Guldaman e che era fiancheggiato su entrambi i lati da erba alta sino al ginocchio e da macchie di fiori bianchi e gialli. Serpeggiava su per la collina e conduceva ad un pianoro dove svettavano pioppi bianchi e neri e crescevano folti gruppi di arbusti selvatici. Da lassù, a sinistra, si potevano scorgere le punte delle pale arrugginite del mulino di Guldaman e in basso a destra si estendeva tutta Herat. Il sentiero si interrompeva sulla riva di un grosso torrente ricco di trote che scendeva dai monti Safid Koh. Se lo si risaliva per un centinaio di metri si incontrava un boschetto circolare di salici piangenti. In mezzo, all'ombra dei salici, si apriva la radura. Jalil era andato a dare un'occhiata. Di ritorno, disse Nana, parlava come una guardia carceraria che magnifica le pareti pulite e i pavimenti lucidi della sua prigione. Ed è così che tuo padre ci ha costruito questa topaia. Questo era ancora Mille splendidi soli di Khaled Hosseini. Oh, Are you gonna teach us anything, or are we just gonna sit here? Just do whatever you want. Giulio Caperdoni, sulle frequenze di Rock FM, Giulio e RadioRockFM.com, MySpace.com/eclettica. Sono questi nell'ordine i due indirizzi di mail e del sito della trasmissione. Vi ricordo che però in questi giorni è disponibile il nuovissimo sito www.RadioRockFM.com, andate a vederlo, anche lì sopra ovviamente ci sono le pagine relative ad Eclettica. E per quanto riguarda la musica che ci siamo appena ascoltati, abbiamo aperto con Dividing Opinions, il brano che, uscito come singolo, ha riportato l'attenzione sull'album omonimo dei Giardini di Miró, ma soprattutto il nome nuovo che avete appena ascoltato è quello dei Frog Eyes. Loro sono nuovi per l'Italia, pur pubblicando dal 2002, solo con quest'ultimo disco che esce per la etichetta californiana di nome Absolutely Kosher, che hanno avuto una distribuzione qua in Italia. All'interno dei Frog Eyes ci sono due membri della band Swan Lake, quel progetto alternativo rispetto ai Destroyer. Fino ad ora lo conoscevamo così ed ora sappiamo che anche è alternativo rispetto ai Frog Eyes. Ce li siamo ascoltati con Idol Song. Ora si ritorna invece su Muffler, l'ultimo album dei The Cinematic Orchestra, però cambiamo traccia rispetto a quella che di solito trovate all'interno delle playlist di Eclettica. Quest'oggi è la volta di To Build a Home. By the cracks of his skin, I climb to the top. I climb the tree to see the world. blow me down. Held on as tightly as you held on me. Held on as tightly as you held on me. Quando Nana aveva 15 anni, era stata vicina al matrimonio. Il corteggiatore era un ragazzo di Shindand, un giovane venditore di parrocchetti. Mariam conosceva la storia da Nana stessa e, anche se la madre tendeva a liquidare l'episodio in poche parole, Mariam capiva, dalla luce malinconica che le si accendeva negli occhi, che allora Nana era stata felice. Forse per l'unica volta in vita sua, in quei giorni che dovevano condurre al matrimonio, Nana era stata veramente felice. Mentre raccontava quella storia, Mariam le sedeva in grembo e si immaginava la madre che provava il vestito da sposa. La immaginava in groppa al cavallo, sorridere timidamente dietro il velo dell'abito verde, con i palmi rossi di henna, i capelli con la scriminatura spruzzata d'argento, le trecce fissate con la linfa degli alberi. Vedeva i musicisti che soffiavano nel flauto Shanai e battevano sui tamburi Do Hall, i bambini di strada che gridavano rincorrendosi. Poi, una settimana prima del matrimonio, un Jin era entrato nel corpo di Nana. Non era necessario descrivere la cosa a Mariam, che vi aveva assistito molte volte. Nana di colpo crollava a terra, il corpo irrigidito, gli occhi rovesciati indietro, le braccia e le gambe scosse da tremiti, come se qualcosa la strangolasse dall'interno, lavava la bocca, bianca, a volte rosa di sangue. Poi il sopore, lo spaventoso disorientamento, il balbettio incoerente. Quando la notizia aveva raggiunto Shindand, la famiglia del venditore di parrocchetti aveva annullato il matrimonio. Erano spaventati come se avessero visto un fantasma, era il commento di Nana. Il vestito da sposa era sparito in un armadio, dopodiché non c'erano stati altri pretendenti. Sulla radura, Jalil e i suoi figli Farad e Musin avevano costruito la piccola colba dove Mariam avrebbe vissuto i suoi primi 15 anni. I muri erano di mattoni crudi coperti da intonaco di argilla mista a paglia. C'erano due lettini, un tavolo di legno, due sedie dallo schienale rigido, una finestra e degli scaffali alle pareti, su cui Nana teneva le pentole di coccio e il suo amato servizio da tè cinese. Jalil aveva installato una stufa di ghisa per l'inverno e ammucchiato la legna da ardere dietro la colba. All'esterno aveva costruito un tandoor per cuocere il pane e un pollaio recintato. Aveva portato alcune capre per le quali aveva allestito una mangiatoia. Su ordine suo, Farad e Musin avevano scavato un buco profondo a una cinquantina di metri oltre il cerchio dei salici e sopra vi avevano impiantato il gabinetto. Jalil avrebbe potuto assumere degli operai per costruire la colba, diceva Nana, ma non l'aveva fatto. Era la sua idea di penitenza. Questo era ancora Mille splendidi soli di Khaled Hosseini. Se vuoi un ultimo bacio in questo sogno che non è la realtà, chiudi gli occhi e pensami forte. Ritornerò, ritornerò, ritornerò. Ora non lo so, ma sono lì, lontan da te. Questo è il mio desiderio, una notte intera insieme a te. E questo è un sogno. What do you like to do? I don't know. Burn stuff. Solo nella notte con i fari spenti, il mio futuro è pochi passi in avanti, preso da sistemi ancora troppo lenti. Il mio futuro è pochi passi in avanti. Fatica, che non fa più fatica. assecondando i miei gusti. Per non far più fatica, per non far più fatica, per non far più fatica, per non far più fatica, per non far più fatica, per non far più fatica. Senso da curare, sviluppare, che riempia questo vuoto e che mi renda più famoso. Voglio un sesto senso da curare, sviluppare, che riempia questo vuoto e che mi renda più famoso. Voglio un sesto senso da curare, sviluppare, che riempia questo vuoto e che mi renda più famoso. Voglio un sesto senso da curare, sviluppare, che riempia questo modo che mi renda più famoso. È una chiusura tutta italiana, quella della prima parte di Eclettica. Vi ricordo che dopo il blocco pubblicitario saremo di nuovo qua, su Rock FM. Nell'ordine sono tre i brani italiani, due già ascoltati e uno ancora da ascoltare. Quelli già ascoltati prima, i Marchos, Dammela, dal nord-est italiano, in uscita nelle prossime settimane, e invece in uscita solo a settembre il brindisino Creme, appena ascoltato con il pezzo famoso. Lo stesso Creme, nel caso qualcuno in questo momento stia pensando "io questo nome l'ho già sentito", lo stesso Creme che parecchi anni fa passò in Demolition, quando Demolition dedicava appunto lo spazio ai demo all'interno di Eclettica. Ora quello spazio non c'è più, ma come vedete invece trovano comunque la loro collocazione all'interno di Eclettica le produzioni italiane, anche autoprodotte, che vengono ritenute significative. Per chiudere questa prima parte del volume numero 5 di Eclettica con i Joycat, è Plastic City.